Ho perso fiducia in ciò che è religioso. Ho perso la fiducia in ciò che è religioso e nelle istituzioni religiose create dagli uomini. Una simile testimonianza merita essere spiegata, affinché, come dice l'Apostolo Paolo, conferisca grazia a quelli che l'ascoltano. Efesini 4:29, cioè produca del benessere. Fin da piccolo ho sentito il bisogno di rivolgermi in preghiera a un Dio. In mezzo ad un prato mi inginocchiavo e parlavo a una divinità che non conoscevo, ma della quale percepivo la presenza al punto da parlare con essa. Quando a 21 anni arresi la mia volontà a Cristo, scoprii di entrare a far parte della famiglia di Dio. Una famiglia immensa, sparsa sulla faccia della terra. Feci subito parte di una piccolissima comunità formatasi da poco, e come tutti i neofiti reputavo bravissime e dalle nobili intenzioni le persone intorno a me. Queste persone avevano abitudini religiose che approvavo, anche perché erano il risultato del mio sincero desiderio di avvicinarmi a Dio. Con il passare degli anni scoprii altri gruppi religiosi che si avvicinavano in preghiera a Dio in modo diverso, esprimevano la loro fede cristiana in un modo contrario al mio, predicavano un Vangelo che mi lasciava incuriosito. Iniziavano così a cadere quelle idee romantiche di un cristianesimo di colore uniforme, come l'idea di una sola chiesa, intesa omogenea nell'azione e nel pensiero. Scoppiavano questi bei palloncini colorati capaci di far sollevare da terra. Vedevo intorno a me non più delle persone perfette, ma ancora pienamente umane, anche se rese figli di Dio per la misericordia. Dal cieco innamoramento passai alla cruda realtà. La luna di miele si trasformò in un'eclissi di luna. Esperienze queste non ancora in grado di demolire totalmente il mio romanticismo religioso, fino a quando non mi sono messo a studiare seriamente la storia del cristianesimo, come e perché, pur essendo fratelli, siamo arrivati a possedere differenti espressioni di fede e gruppi religiosi cristiani. Così compresi che l'apparente calma e armonia di oggi non è altro che il risultato di acerrime guerre, combattute nei due precedenti millenni. 2000 anni di guerre, di controversie, di dibattiti, di scomuniche, di spaventosi omicidi, tradimenti, argute argomentazioni e posizioni religiose. Di tutto e di più, stavo prendendo coscienza che il cristianesimo professato oggi altro non è che il risultato di diatribe e inaudite guerre. Altro che romantico cristianesimo. Quando poi mi sono messo a considerare i vari concili ecumenici funzionali a unificare la fede cristiana, sono rimasto letteralmente scioccato nel notare come siano state svolte le tematiche per le quali sono stati indetti e le conclusioni alle quali si è arrivati. Concili approvati e disapprovati, soluzioni che hanno provocato divisioni più che armonia, dove ognuno fu pienamente convinto di agire per il bene della verità. Ogni chiesa ha le sue regole religiose, cioè quei comportamenti reputati giusti e tratti dalla Bibbia, per esprimere la propria riconoscenza a Dio. C. È chi crede giusto riunirsi senza che vi sia un conduttore stabilito. Chi invece ha più conduttori? Chi ha programmato in anticipo lo svolgimento del culto? Chi chiede perdono del continuo a Dio? Chi chiede del continuo lo Spirito Santo? Chi dopo la riunione esce sollevato dai pesi che aveva? Chi invece esce com'era arrivato? Tutti pienamente convinti di osservare le giuste direttive di Dio. C. È chi segue regole o istituzioni stabilite da secoli, chi invece stabilisce nuove regole per non fossilizzarsi nelle espressioni di fede. Quando ero giovane, l'armonio, o al massimo per i più progressisti, il pianoforte era ritenuto l'unico strumento adatto al culto, mentre da vario tempo gli strumenti quali la chitarra, la batteria, il sassofono e altri hanno una parte centrale nell'adorazione. Tempo fa il canto veniva accompagnato da strumenti, oggi gli strumenti dettano le regole del canto, regole che hanno modificato l'espressione della fede. Alcune comunità impongono che l'omelia sia centrata su un argomento, mentre altre lasciano la libertà di parlare di qualsiasi cosa. Alcune comunità hanno stabilito un orario fisso di predicazione. Altre non ne hanno. Comunità che vai, usanze che trovi. Tutto questo fa parte del limite umano e Dio stesso, sono convinto, lo accetta. Il Dio che ha creato milioni di esseri diversi, con funzionalità dissimili ma complementari, Non credo pretenda che esseri creati a sua immagine gli esprimano la loro riconoscenza tutti nello stesso modo. Ma, nonostante tutte queste delusioni del romanticismo cristiano, un aspetto ha demolito alla radice la mia fiducia nelle istituzioni religiose e nelle loro forme. Per me le forme religiose sono solo strumenti per avvicinarmi a Dio e le istituzioni semplici, regole necessarie per mantenere l'ordine. Per questo accettavo anche la diversità delle regole e delle istituzioni, ritenendole mezzi umani per avvicinarsi a Dio, fino al giorno in cui mi sono reso conto che per altri era molto di più. Forse all'inizio i vari modi di avvicinarsi a Dio erano solo strumentali. In seguito da strumenti si sono trasformati in un contenuto religioso dotato di importanza vitale. Anzi, peggio ancora, tutto ciò che è religioso è diventato uno strumento per soddisfare le proprie voglie malvagie della natura corrotta e per realizzare i desideri ambiziosi, distruttivi, mai sradicati dall'anima. Se si compie un'onesta rivisitazione storica della religione cattolica romana, cioè la Chiesa di Roma, ovvero il Vaticano, suona quanto mai ironica la sentenza del Dictatus Papae, emessa da Gregorio VII nel marzo del 1075 come base dell'ideologia teocratica, fino ad oggi mai abrogata, e se fosse anche stata abrogata, ciò che è stato fatto rimane. La Chiesa romana non ha mai sbagliato né mai in futuro sbaglierà, come testimonia la Sacra Scrittura. Se si è in grado di non rimanere vittima della religiosità, quella espressa anche da una regola della Compagnia di Gesù, uno dei tanti ordini del cattolicesimo, la quale cita: per non sbagliare, dobbiamo sempre ritenere che quello che vediamo bianco sia nero, se lo dice la Chiesa gerarchica. Regola 13. Inscritti ed Kit. P183. Non si possono ignorare le valutazioni di tanti storici e scrittori, come Claudio Rendina, quando mettono in evidenza che papi, cardinali e sacerdoti hanno vissuto tra cortigiane, puttane e pie donne, quando hanno messo in evidenza anche la loro omosessualità, la pedofilia, lo sfruttamento finanziario di ogni genere, i vari omicidi compiutisi in Vaticano tra papi e cardinali, il razzismo contro gli ebrei, lo sfruttamento da parte della CEI della generosità delle elemosine dei fedeli date poi in forma di prestito bancario e le venerazioni di reliquie non autentiche come due spine della corona di Gesù, il dito di San Tommaso, uno dei 30 denari di Giuda, la spugna imbevuta d'aceto servita per dissetare Gesù e il sasso su cui era seduto Gesù quando perdonò la Maddalena. Da un certo punto di vista ciò che è religioso è tale, e non vi è nulla da dire, ma a farmi perdere fiducia nella forma religiosa è la strumentalizzazione maniaca che se ne fa. Per questo molte persone hanno perso la fede in tutto ciò che è religioso, non tanto per la religiosità in sé, ma perché ne vedono lo scopo fanatico dei religiosi. Bisogna essere obiettivi. Molte persone sarebbero pronte a credere in Gesù e seguire i suoi comandamenti se la forma religiosa non avesse preso, con il passare del tempo, forme sempre più nauseanti e disumane. Per questo anche l'Apostolo Paolo ha scritto: «Per causa vostra, come sta scritto, il nome di Dio è bestemmiato fra i gentili». Romani 2:24. Si mancherebbe di obiettività se ci si limitasse solo a valutare il cattolicesimo romano, perché anche altre religioni, come il protestantesimo, hanno un passato storico che non onora di certo la fede cristiana e che stimola a perdere ogni fede in ciò che è religioso. John Wesley, tanto per citare uno dei nomi più famosi e significativi di tutte le epoche della cristianità perché promotore del risveglio metodista, sopportò una costante opposizione da parte dei religiosi cristiani. Nonostante i metodisti sviluppassero un'impressionante filosofia sociale che risultò di grande beneficio ovunque, alcuni li accusarono di essere dei papisti, altri tacciarono di legalismo il loro rigido stile di vita. Vennero divulgate centinaia di pubblicazioni che attaccavano il metodismo. Anche commediografi e romanzieri si prendevano gioco di questi cristiani zelanti. Lo scherno veniva quasi da ogni parte. Denunciati come promulgatori di strane dottrine, disturbatori della pace e ciechi entusiasti religiosi, gli evangelisti metodisti affrontavano ogni giorno una certa violenza. A volte venivano presi a colpi di pietre, si udiva urlare bestemmie contro di loro e si scatenavano sommosse popolari. I tamburini marciavano tra gli ascoltatori. Si portava il bestiame in mezzo alla folla. Perché, continuo a chiedermi, perché tanta opposizione a persone che hanno dedicato la loro vita per predicare il Vangelo? Gli storici riconoscono che John Wesley aveva le sue pecche e compiva i suoi errori. Ma chi ne è esente? Il migliore, forse, è colui che sa nasconderli meglio. Perciò non è tanto l'imperfezione dell'uomo verso il quale ci si scaglia a promuovere certi atteggiamenti, quanto le nostre posizioni religiose inique e malvagie. Noi siamo malati di giochi di potere, di onore e gloria, che la religione acutizza a livelli estremi, anziché togliere ambizioni e desideri sbagliati. La fede religiosa in Dio spesso alimenta ogni nostra concupiscenza e ci fa raggiungere scopi malvagi. Quando si arriva a certe forme di omicidio, come nel cattolicesimo, quando si arriva a certe forme di opposizione estrema, delle quali poi ci si pente, come nel protestantesimo, la spiegazione è che si è motivati da ciò che è mera formalità religiosa piuttosto che da una vera fede sincera, obiettiva, libera da ogni concupiscenza, in Gesù Cristo. Una vera fede in Cristo Gesù ci fa amare la sua persona, più che la forma religiosa mediante la quale esprimiamo il nostro amore verso di Lui. Ci fa amare il prossimo, più della forma religiosa mediante la quale vogliamo aiutarlo. Così non avrò un'unica espressione religiosa che considero assoluta e valida, ritenendo tutte le altre sbagliate. Come non avrò un'interazione religiosa limitata solo al mio ambito religioso, considerando da condannare tutte le altre. Vivrò così di una fede cristiana estremista in Cristo quale unico Salvatore, unico Dio, unico Mediatore, unica persona da pregare, unico Maestro e unico Papa, ma non avrò un modello religioso estremista, ritenendo di possedere il monopolio della vita religiosa cristiana e reputando tutti gli altri nell'errore.